attenzione 10, attenzione canale 10. Gianni. Oh, è caduta la linea. Ehi, è caduta, male c'è fatto. E ora stavo cercando per te, non l'ho trovata. Ehi, vabbè, dai, siamo qua. Oia, stavo dicendo, stanotte non ho dormito nulla e ho recuperato stamattina. No, ma come che dopo mi attacca il pirina per il sicuro, dai. Vabbè, per il raffreddore fa bene lo stesso. Ma io uso l'aspirina per vescettere. C'è la tachipirina con l'aspirina. Tachipirina. Ma potrebbe essere anche una forma influenzale, non è detto che sia per forza il cupido. No, è forse la influenzale, il raffreddore, perché io... Allora, c'ho sempre il coso a caldo qua, poi esco il cortile e mi pizzichi che ci chiede a me. Infatti stamattina mi ha fregato, anche se l'ho vestito, però sono uscito fuori, poi sono ritornato, ho due o tre stanute, e cavolo, mi ha pizzicato dal caldo al freddo. E quello, vabbè, cambiamento di temperatura, magari. Allora, smalzo termico, si dice. Ehi, accidenti, tecnicamente. Vuoi fare il sofistico? Ehi, nemmo quel shop, avete il sefalo, mi bomba. Diciamo che sono ancora un po' duri, me lo sa cantarlo, ma praticamente hanno detto a voce alta, Mutu! E si sente comunque che canzone sta cantando. Natalie, accendi, accendi! No, buono, Natalie ha spento. Ha spento le miniglie. Comunque, io ho fatto una volta, come ha detto il chef, una volta alla televisione, sta guardando quel programma. È inutile che voi mettete l'acqua, la fate bollire e poi mettete la pasta. Guardate una cosa, ha messo l'acqua fredda, la pasta dentro, l'ha acceso, quando stava bollendo era già cotta. E io lo faccio così per il cane, la faccio così per il cane, la metto direttamente. Sì, è lo stesso. E dici, ma ti si gotta, andate, e fa, se si fa pure gas. Eh beh, è certo che sì. Tutto che non ti si incolli, che non ti si attacchi, perché se fai gli spaghetti magari ti si attaccano a farli così. No, lo faccio sempre con gli spaghetti, non si è mai attaccati. Infatti sono metodi magari che si usavano anticamente, ma c'è chi ha studiato queste cose, che ha appurato che si può fare diversamente. Lei lo stai parlando proprio, cosa ci si è fatto la cultura di notte, che non dormi la notte, ha appurato, mi sono passato a me, anzi domani io voglio passare a vedere proprio il soprotto Lella. E stamattina ti abbiamo aspettato, dove non venire più? Perché non sono uscito già. E vabbè, sta scherzando, non c'è problema. Domani vai presto, mi raccomando. Alle 6:30, alle 7 sono da te. Ciao, mamma mia. Ciao. Alle 8, speriamo, 8:30. Dato lì per sì, aprono presto la mattina per fare le passe. E quindi sono più grandi della normale queste passe. Più grandi, più piene, più buone. Di bozza beffa. Io dico ascolti, me la danno anche una fratella senza zucchero sopra. Sono belle ambrose. Allora domani colazione qua non le faccio giù peggio. Ambrose. Attenzione Natalino, apri il baracchino, forse c'è il numero, chiamalo, buffa, e dille accendi che c'è Rotolella aspettando. Non lo trovo il numero. Ma non l'avrei messo. Perché da quando ho cambiato il telefono ne ho trascritto meno, capito? Vabbè. Domani magari fa solo la rifornata per te. Ah, perché? Ma che ti rividi tu? No, lo fai già, sono cazzo, matta che c'è mia 3.000, ma... Comunque, ricordati, due cannoncini, due ciabatte e due frittelle per me, se le pago a parte. Guarda che non so memoria, due cannoncini, due frittelle, due ciabattole. Se volete non le vuoi. Mi piacciono anche i vini, però dai vini ritolgo la cappa perché non mi piace. No, ma che a me. Quando c'è troppo cappa, mi stava rispondendo Google, mi ha scritto mi ha detto, vuole sapersi, la papilla gustativa, e stava parlando della cappa che tocca. Vai, sempre la sua. E tu il musi blocca il telefono, ma è boh, poi ho comato che con l'orecchio, ragazzi. Perché ci abbiamo feeling, capito? A me mi arriva il Falcone sul telefono. Oi. Ah, va benissimo il telefono, non è il telefono, no, è qualche cosa che c'è qua. Quando sono in macchina parlo tranquillamente anche ore, magari viaggiando e coso, e non succede mai niente. Ciao, mio. Mi ha fatto un bel sugo, guarda già. Mi ha messo, ma proprio... C'è, non c'è, uno pizzico di zucchero, perché le toglie anche l'acidità, le toglie. Ma è uscito così buono con la garmazzinata, cipolla, olio d'oliva. Io non ne metto di zucchero, perché uso gli Antonella non sono acidi. Vabbè, sono già passati, che prendi tu, sì. Cosa? Tu prendi quelli in bricolo, prendi, già passati. Sì. Bisogna qualche giorno, me lo provo anch'io a pigliare, dai. Quell'Antonella non c'è bisogno di nessun zucchero. L'interessante è che non lo faccia cucinare troppo, perché se no il sugo si inacidisce. Però l'altra volta abbiamo preso quello, un altro tipo di sugo, ho messo il salsiccione in mezzo, tutto quanto un peccato, se sei voluto pulire il tuo gatto perché era acido. Ma anch'io non lo faccio cucinare molto. È un po' un assaggio di tanto, infatti lo vedo che poi è buono, ok. E ci metto anche un dado, ci metto col dado vegetale praticamente. E praticamente non metto sale, capito? No, io dado non ne metto. C'è gente che li mette saporita, altre cose, ma no, sono tutte cose in più. Il sugo è bello farlo naturale, un po' di basilico, sì, ma altre cose. Lo so, basilico fresco era meglio, io ce l'ho congelato. Ma quando lo prendi fresco, lavi bene le foglie, lo metti nel contenitore, ti dura bene. Sì, ma devi mettere in frigge però già. Vabbè, ovvio. Ce lo si guarda. Sì, il raffreddore mi sta prendendo, e allora dopo ho mangiato mi prendo la tachipirina. Ascolta, guarda che ho le supposte di Polangin, se ti vanno bene. A lui ci diremmo noi due. Fare i siruri. A me mi basta la tachipirina, è decente. E lui, e poi devo dire quanto ne ho che mi faccio fare la ricetta. E lui, online, dalla dottoressa. Ma le supposte sono più dirette, capito? Se ti metti la supposta, una solo, perché poi lo so che ci prendi gusto. Ma allora, siccome lo fai tu, no? Insomma, che ci provano gli altri. Poi di tu alcuni piccoli. No, io li odio, non le prendo mai supposte, perché mi viene voglia di buttarle fuori, no? Non le resisto. E allora perché vuoi che le prendo io? Magari uno più di un altro, magari tu le acchiappi meglio. Vai. E poi ci utilizzi, ti si muove la supposta, la veloce. Oggi che te la tarina vuoi entrare. Quella cremina che ho preso l'altro giorno, mo che è buona. Che cremina avevi preso, non ricordo? Crema di wifi. Ah, sì, non so, tipo Myles. Buona. Ma io ho quella, il Myles e quella cioccolato, ma scadono quelli, ce lo do meglio me, un anno. Hanno la scadenza come tutte le cose. E dopo quella scadenza però butto via. Ma tenendo due pulle che voi non le posso più a me assaggiarle. Come c'ho un barattolo io, un bicchiere l'ho barattolo. Tipo Nutella, nocciola, sigillato, ed è c'è scritto un punto, un coso in verde, praticamente non mi ricordo. E cosa te l'ha preso a fare questo barattolo di Nutella che ti fa male? A chi te la bacia non ti va di mai, no? Tu sei un diavolo, sì. Guarda, ogni tanto la vedo e vabbè, adesso no, ma domani già ti assaggio. E quando ce l'ho comprata, due settimane fa, è sempre il mobile, ma qualche giorno già, l'apro e voglio assaggiare. E di quella che non fa male, capito? Perché è fatto con criterio abbastanza, con cose naturali. Io sei peggio di Elena che si piglia quelle che fanno i vasini da notte, che si mandi male. No, a me ti coglio il bicchiere da no. Io una volta ho comprato, guarda, ancora di betto non ce l'avevo però. Un barattolozzo di zucchine da 5 kg. Io già l'ho visto quello lì, ce l'avevamo anche noi in vendita. Quello lì lo usano per fare le crepe, queste cose qua, lo comprano quelli che fanno crepe, capito? Eia. Beh, io me l'ho tenuto, mi sembra, 2-3 settimane. Ho dato i miei figli e dopo un mese me l'ho ritornato, ho continuato a mangiarlo io. Perché non ne mangiavo? Sì, perché poi erano stufi. Tu ne compri troppo, papà, e vabbè, mi faccio lo sforzo, lo mangio io, allora di vetro ne avevo. Quello lì dà un po' di calorie anche. Quello va bene l'inverno perché ti scalda. Eia. Sai chi lo mangiava la notte, un barattolo di Nutella, ha fatto tutti i dentri, sono farati. Aia! Vai via, cazzo! Cazzo, mi ha cucciato un colpo di zappa la massa di Nevaria al fiacco. E già ho fatto mancare un ripino qua. Chi va via? La moglie di no. Giovane la freccia, si mangia quando faceva il custode di Abarcito. Un barattolo di Nutellotto si mangiava, 10 anni, 800 grammi, un chilo. No, io non ho mai esagerato, a parte che la Nutella a me mi piace, ma quando ce n'è poca, quando è troppa mi nausea. Quando ce n'è poca, comunque io guarda, sono da bozza e mangio la Nutella, ne ho una voglia, guarda. Oggi, stasera sono andato a prendere il cipolle che devo fare il sugo, che non avevo, alla Conad. Niente, ho visto la Nutella, l'ho passato dritto, poi ho visto quel pane a pagnotta, tagliato a fette, scherzo, guarda, mi sta tentando, mi pane a fette, pagnotta, mi Nutella, se no la mia di rosso, poi guai. Tante cose ti tentano, ma bisogna andare dritti molte volte. Sempre, se ti fermi sempre le bottiglie. Meglio se la faccio resistere. Ecco. Come l'altra mattina tu hai fatto, non le voglio. Non le ho prese già, ma se no non posso mangiare il paninuccio. E ma ti hai mangiato una focaccia, però, con la prosciuttella, con due etti di prosciuttella dentro. Che faccia, cazzo intendi? Secondo me ci ho messo due o tre fette ho messo. E poi la focaccina era piccolina quanto la mano mia, io dai, boh. Sì, sì, e poi se torno a casa te le mani ad adulto. Ho visto che ho due o tre fette, era troppo poco. L'ho tolto la polpa alla mollica del pane, tutta l'ho piegata in quattro, via. Quindi ho ragione. E vabbè, ma non c'è bisogno di dire frequenza, te l'ho detto io. Poi chi si sente in mica, domani a Ghidoga. Io prendo sempre la palla al balzo. E allora che io faccio la Sardegna quando mangi le pane. Eia, eia, oia. Se non la buffonemo, che... Ma Natalino deve essere, o c'è gente a casa, se no sarebbe entrato quest'ora. Sono già le 7:05, è caduto strano. Natalino non si sente. Ehi, comprati l'amplifone. Minui, Natalino. Ehi, hai inteso, fiago di baci, di cose, è entrato pochissimo. Ciao Natalino. Ciao a tutti e due. Sta venendo gente, non posso rimanere, da. Ci sentiamo alle prossime. Vi ho sentito acceso a vedere chi c'era adesso perché sto rientrando, però sta venendo gente, capito? Da, vi saluto e ci sentiamo alle prossime. Sempre ospiti, ciao Natalia, ciao ciao. Adesso li porto la Fedi oppure qualche parte di Protollella. Ciao Natalia, comunque sono passato stasera, visto dove è Protollella, domani sono già lì. Ah, visto là. Ok, da. Ci sentiamo. Mi dispiace, non posso rimanere, è arrivata gente, dai, alle prossime. Va bene Natalia, non c'è problema, dai, io ci sono tutti. A baracchio oggi ci siamo sempre la sera, dai. Ok, buon proseguo allora, già ci sentiamo, avanti già. Ciao Natalia, ci sentiamo, dai. Cosa stavo dicendo tu? Ti hai fatto la posta, cazzo proprio, sei andato a Maidan, di modo che non sbagli, domani a colpo sicuro. Però trovo giù del parcheggio, sai che mi fermo lì, sono disperato, cazzo proprio, va bene, va bene. Tanto domani devo uscire adesso che devo fare qualche cosa, quindi. E quindi voglio assaggiare queste pasta così giganti. Io. Con fatti il tampone. E io dopo ve lo faccio, già ce l'ho il tamponcino. Ma anche le dietro pure me devo fare il tampone. Se non ce l'hai te lo do io, c'ho un Tampax. Ma io sono solo davanti. Comunque visto dai, ce n'è c'è gente all'ascolto e tu vai a dare dei panini della Nutella che lo mangia. Ah, io fai da bravo, ciò ti via mammagnone. Ragazzi, una futica, non può cribbia. Mi ha mandato una soup che ci ha preso, quella a gasolio. Chi? Altro che pellet, è il solito che mi manda i baracchini. Ah, è meglio della stufa a pellet? E beh, ti dà ti consumerà un litro di gasolio in tutta la giornata. In proporzione conviene più, però a me l'odore buf, non viene. E infatti l'ubiaco da quell'altro fa odore, ma quella che usa Natalino va anche a cherosene. Lui la fa andare a cherosene perché il cherosene costa di meno di quello che usava lui, che non mi ricordo come si chiama quel liquido. E la sta facendo andare a cherosene e va benissimo. No, io con il condizionatore, ma io ho anche il mini condizionatore, c'avevo in bagno, anzi io già quello grande, uso il piccolino, l'ho acceso, perché in bagno non è attacco mai anche dove faccio la doccia, e niente, già, però metto, sarà la cucina e cosa, che c'è un coso in legno, dove appoggio anche dalla cucina a cucina qualcosa, appoggio la sopra, e metti di sopra, e quando sto mangiando mi dà questo calore così bello alle spalle, ah! Oh. Io non ne uso nemmeno, ce l'ho ma non ne uso perché c'è il riscaldamento a gasolio, c'è il termosifone, quindi non ne uso, lo uso solo a freddo la d'estate. Anch'io c'ho il termosifone qua, però hanno tutto staccato l'impianto, quindi non me ne posso venire il termosifone. Ce n'ho uno, due, tre, ne ho, pensa un po'. Uno in camera, uno in cucina e uno in bagno. E non funzionano più, non c'è neanche più acqua, tutto hanno svaltellato. E cosa direi a fare allora? È come se non ce l'ha visto. Quando c'era il vecchio, poi il vecchio ci ha dato via. Cioè, quando si è morta la moglie, praticamente hanno cercato di vendere tutta la villa grande, non ce l'hanno fatta, adesso l'hanno divisa, adesso chi si è preso quella parte là, hanno smantellato tutto, tutto a nuovo stanno facendo, capito? E quindi niente caldaia e niente nulla. Ho capito. Adesso tutti e due morti sono gli anziani. Sì. Adesso ci sono solo gli usufruttuari. E figli. Antonio, Isabella e Maria. E buco. Ma tutti e tre lì abitano, no? No, Antonio. Solita via dalla zia. Lui a Porto Cervo proprio. Ma perché di quella zona sono? No, ma per esempio anche Maria e Isabella si sono comprato anche la villa Santa Regina Cadura. E quindi già stanno bene. E loro ce l'affittano, capito? E poi d'estate ci fanno loro. Acciugami! Lei voleva fare Mingo a fare abitare di nuovo a me là dove abitavo prima io. Perché già una casa l'ha già affittata, poi dove ci andavo io sono due e più quella che c'è sotto, che a partire da lì, che l'ha fatta nuova, sono tre. Tu pensa, te ne affitti più di nero e di principio. Ma lo sai che si fa così per diventare ricchi? Se fai l'onesto, ricco non diventi mai. Vabbè, però io sono stato 11 anni così già, mi sono scocciato, basta. Niente, me ne voglio andare qua. Comunque ho trovato un'amica che lei ha trovato Marita, abitava qua e nel 2008 è andata via. Ecco perché non l'ho trovata qua, perché io sono nel 2010. E quindi niente, e mi ha detto che lei ha preso Marita, sta così bene, si è piantato l'orto, si è fatto. E poi mi ha detto che lavoro fa? E io gli ho spiegato e mi ha detto guarda, c'è molte persone che conosco che stanno cercando un elettricista, un idraulico, mi parlo di te così almeno ti fa qualche lavoro e se trovo qualche altra casa in affitto nelle zone, Roberto mi ha detto questo, ti chiamo, allora mi rubano qui. Se lo trovi a Marissa, bisogna vedere se c'è campo anche lì. Sì, io chiamavo quando andavo da quello lì, quando trovo le tigre di Marissa, Puglia. Perché dove lì prima non c'era campo. Quella zona lì non è che sia lontano da Marissa lì. È un bel po' di distanza però, è Gianni. Non vorrei mettere cazzo Armonia Marco, Barrista. Barrista è molto, molto più giù. Io lo so, Barrista dove c'è quel rifornitore, non so dove. Ma lì è oltre, capito? Sì, perché quando io andavo la domenica a casa di quella lì a prenderla, oppure la mattina per andare a mangiare a casa di loro, e io parlavo al telefono con lì, di quella zona lì, sempre che in quel ritiro lungo lungo. Quel ritiro sono praticamente 3 chilometri, li ho misurati apposta. Io avevo un amico che c'aveva lì la campagna, scendevi e c'era il mare, facevi 2 metri dalla campagna e c'era il mare. Sì, anch'io sono stato... c'è un amico, c'avevo un amico, non so se c'è ancora, e aveva, scendevo giù a sinistra e c'è il mare vicino, poi sempre con la zona prima delle fornitore sulla sinistra c'aveva la madre del giovane che lavorava con noi. E lì Antonello c'aveva la casa, era bella la casa tutto quanto, c'era la campagna, poi facevi una stradettina e scendevi giù al mare. La cosa che non mi piaceva che era tutta ciottoli, ciottoli grossi. Vabbè, ma ce ne sono case belle. Molti li piacciono, primavera, estate, l'inverno lo odiano, chissà perché. Anche l'inverno non c'è attività al mare, non c'è nulla. Almeno che tu abbia delle passioni tipo la pesca, ti piace pescare, ti piace fare altre cose. Perché se no non c'è gente, non c'è movimento, capito? Lo so. Vabbè, ma comunque, io spero di trovarla quanto prima, dopo le feste, perché per il momento adesso così, sto sguinzagliando un po' di amici e amiche, per trovarmi in qualche casetta, sa che c'ho due cani, infatti quando glielo ho detto, no, i cani non si possono dare via, ma stai scherzando, e per me, e mette pandemia, ce l'ho già 3 anni io. Se te ne presi devi anche portarteli appresso, come ti stanno loro appresso a te, tu devi stare appresso a loro. Certo. Allora sono andato lì a quella lavanderia industriale che c'è vicino a Blackstone, alla Bava il Piumone, perché dalla dice mia non ci sta. E mi guardava, ma tu non sei Torino? Allora, e tu non sei Roberta? Sì. E da lì che puoi. Andare. E da me, e tu, so che ti eri divorziata, sì, adesso c'è compagno, è peccato infatti. Ci avrei pensato io. Quanto si paga per la valla, un euro? E le balle. Se vuoi usare la lavatrice grande, 6 euro. Per asciugare altri 2, con 8 euro te dici. Invece lava secco. Non lo so, io non ho mai portato lava secco già. Io avevo un piumone solo, ho usato la lavatrice piccolina. La piccolina si metteva 4 euro invece. Per asciugare ho messo 2 euro e l'ho messo a manetta. Non riuscivo a fare altro quando è finito, non riuscivo a pigliare in mano e bruciava. Ma io non l'ho mai fatto. Era cazzata. Cioè, la temperatura te la decidi tu per asciugare. Ci sono degli oblò enormi, giganti, metto la roba che è umida appena lavata, la metti dentro, programmi, ho 30, ho 60, 90 gradi, a 90% di calorie, cazzo che è potente. Andava bene a metà, io dove sono al massimo, cazzo, la bruciava quella cosa. Bello, bello, poi quando gira veloce, cazzo, trovo dalla parte all'altra. Ma la lava bene? Sì. Ah, e il prodotto te lo danno tutto loro, c'è cioè, lì, tutto lo metti sia detersivo per la matrice che la bobinetta. Ah ecco, non è che lo togli il macchinario, lo devi mettere lì? No, ci sono già le bottigliere, non lo so fare, tu lo prendi e le metti nella vaschetta e poi lo metti a posto. Ho capito, self service. Eia, no, già lo va bene già, la voglia. No, mai fatto. Ho visto gente che lo faceva, ma non ho mai, non sono mai andato a portare, anche perché portare i miei piumoni ci vogliono buste enormi, perché non ci stanno, sono ben grandi. Già, anch'io sono grande, e dico una cosa, io ho comprato le buste anche per la spazzatura, per le colorate trasparenti, e tirò 70 per 110 e il piumone ci sta ben piegato dentro. Chiaro. È vero che poi il piumone, la busta la butto via, che c'è il cestino là, e io me ne porto l'altra di scorta, quando è lavato me lo metto dentro che la busta è pulita, capito? Io una volta mi sono lavato 3 piumoni e già che c'ero 2 coperte. È fatto bene. visto che la coperta, quando la metto la lavatrice mia, che da 7 kg, boh, non mi chiate più nulla, è un casino. Allora preferisco, quando c'ho molta roba da lavare, che me la porto là. Poi quando è così non la lava manco bene, perché rimane troppo pressata dentro e non la lava bene, invece deve avere un po' di gioco di modo che la possa far girare bene. Vabbè, guarda, quelle lavatrici ci stai tu dentro, dove asciuga è ancora più grande, a voglia se mi c'è dentro. Ma io non me ne devo fare, a parte che già lo sai che adesso non me ne posso fare di bagno. Lo so, e mica dentro, adesso, che ti inchina. Mi devo lavare a pizzi, fin quando mi guarisce bene la ferita. E beh, la facevo anch'io. Tu pensa, dove c'è la lavatrice grande, c'è un bel pomello grosso grosso, c'è un blu. Quando gira veloce, per 5 minuti gira veloce per sta per finire, tu lo vedi che sembra che sta esplodendo. Ogni cazzino di fatica. Quando finisce ti avvisa così. Vabbè, 30 minuti comunque, dai. Uno se va a prendere il caffè che c'è il mare, poi un po' più giù, a Blacchistone. Uno si rimane in macchina, uno si posa in kiwi, insomma. C'è la pancia in fretta. Magari finisce nel frattempo te l'affondo, dopo che la va. No. Oh, ci vanno un bel vigno che ci vanno, C'era questa tipa che c'era il pantalone fuggito attaccato a culo, mamma mia. Ah, bravo. No, io me la guardavo soltanto. Toglievo la lingua di traverso, le fa tutti. La lingua pura, no? No, dai. Comunque, se ne accorta che io me la mangiavo con gli occhi. Allora si gira la posta e muove il culo, eh? Oi, Tonino, Tonino. Cosa fa fare la donna, Tu sei peggio di Lando Buzzanca. Perché tu invece non le guardi, no? Io no. Io sono molto discreto. Infatti. Tu c'hai l'occhio nascosto. Discreto, no. Anche se lo sguardo magari ci va, però molto leggero, dai. Non è che insisto. No, io passo e ripasso, boh. Ogni tanto passo e ripasso. Vabbè. Io sono molto riservato. Come no? Oia. Quindi domani ti devi fare l'overdose. L'overdose? E cioè? L'overdose di zuccheri. Ah, no, l'overdose mica esagero, dai. Se poi siamo così grandi, ce n'è un bel... Una sola mi mangio, boh. Minchia, ma una non va dare in mano. Noi ci sono quella roba perfetta. Ma... perché c'è che la ciabatta piace a me? Ce n'ho io due di ciabatte che sono un po' che non le uso, magari sono buone. Quelle con la cremusa? quelle vedi due me le mangeri, ma anche quelle grandi sono? Tutte grandi, belle e amprose. Strano, mai nessuno mi ha parlato di questa portorella qua. Perché è poco conosciuto, perché è nascosto, non c'ha un nome. Però la gente del posto, della zona, la conosce. Ho visto c'è la chiusa. È scritto pasticceria Brotto, no, Lella Brotto. Poi non lo so se Lella è il cognome o è Brotto il cognome. Forse Brotto è il nome. Sì, Brotto è il nome perché conosco anche uno che si chiama Brotto. E poi su Dora, Brotto, Zuniari e Gavino. Non erano i martiri turristati. Gavino si sì, ma Inzo. Carzo. Dei sassarisi, due giorni, non detto dei italiano, boh. Avanza Baiz. Ecco, adesso va bene. Oh, ma tu ci pensi, domani, miam, miam, miam. Meno di mangiare la pasticceria. No, mamma così, che mazza che se mi ha autominato, pure qua. Sì, che devo fare la pasta asciutta stasera, se no guarda, ma avrei assaggiato quella nocciolata. Là. Stamattina ero coricato, mi sono svegliato e soprassalto, mi sentivo strano come per svenire. Sono andato correndo, lo sai che ho trovato le lancette, gli ho trovato un pacco. Mi ho misurato la glicemia, dove la quanto ce l'avevo? E mo ti vedo cosa hai mangiato. A 60. È troppo bassa. Vedi, là ci vuole la protolella. No, mi ho mangiato un chilo di arancia. Che cazzo chilo, ma così? Per modo di dire. Ma... E anche clementini sono zuccheratevi. La frutta ha tutto il fruttosio, solo che il fruttosio è uno zucchero che assimili piano piano, non è uno zucchero diretto che l'assimila subito e ti fa salire la glicemia. Il fruttosio lo assimili pian pianino, capito? Vabbè, se esageri anche con quello, però fa meno male degli zuccheri. Vabbè. Sì, infatti ho indicato più la mela che ha meno zuccheri. Non è vero, tutta la frutta c'ha zuccheri. L'aguria per esempio ha 70, no, il 97% di acqua e il 3% di zuccheri, mi hanno detto. L'aguria non fa nulla, mi vuoi mangiare un cazzo di biati. Mi ha detto anche cosa, dottor Fancillo. L'aguria, a me mi piace un po' l'aguria. Quando è buona, bella fresca, ai ai ai, mi è giusta. Io prendevo la cavina che è senza simi, che è buona. E anche io, ma ho preso anche l'altra, quella di Arborea, che è molto più dolce della cavina. E poi prendevo la perla nera, che è un po' goccia, è buona. E sono, se trovi quella buona di anguria, d'estate forse è uno dei pochi frutti che ti dissetta. E è tutta Eva, va fuzza. Sì. A me con le semi non mi piace. Vedi, il melone sì che è a zucchero. Sì. Io guarda, non dico male, mi ero mangiato una cassetta a 4 meloni, una nottata. Non c'avevo diabete. Meloni, cacchi, uva, poi che c'è di bosciudì. Sono tutte frutte che fanno molto male, che sono da evitare, dai. Cacco, mela, tutti quelli con la roba lì. Se il lume è micidiale, infatti ormai non l'ho più comprato io. Poi quando mi ha alzato per le castagne e il rosso che ho fatto, paccare dai, asciuccio, e mi ha detto non ne mangi più perché le fa salire la glicemia. E cosa ne sapevo? Le castagne, cazzo. E pure il zucchero non penso che ne hanno tanto. No, tu di... Boh. Era così buono il rosso, l'ho fatto, che te l'ho preso anche con te che ha messo un bucherellato, qua. La mazza di rinvare, raga, più mezzo, tu c'è ciò che faccio. Tu prova a mangiare quelle secche, le castagne, non senti proprio lo zucchero. Ma io non ne ho più comprato né secche, né frecche, né nulla. Io quelle secche qualche volta le mangiavo, dai. Lavorando, sai come, magari si rompe qualche pacco e cose, le assaggi una. Ma erano morbide, morbide quelle che vendevamo noi. Non so, già sono buone però già. Una volta che c'è questa già che poi ne fai a meno, perché sai che ti fanno male. Puoi trasgredire qualche pasta da protonella, va bene. Ui ui ui. E lui a 7:30. Comunque. A te le mangi, cazzo, mi ha chiamato uno dell'Ips alle 3, cazzo. Devo andare io domani mattina. Ma io domani 10 vado lo stesso. Ho chiamato Luigi e ha detto ma te ne mangi, che non lo possono fare così a chiamare per non farti andare. Ah, ti hanno detto di non andare? Ne lo spieghiamo qua al telefono. Ma te non ci ho preso nulla, ma io vado lo stesso, cioè, se sembra la protezione ci vado, non mi frega nulla. Ma cosa ti ha spiegato? Praticamente che è così, è giusto, capito? Ho detto come mai io dopo questo mandato mi siete permessi di togliermi su di fare il sindacato. C'è lì ha firmato la delega, non guarda, io il sindacato l'ho fatto 15 anni prima del santo, quindi non mi dica se fessi perché io delega non l'ho firmato nessuno. Comunque se vuoi fare la disetta non ne usiamo più carta su carta, niente, farò tramite di me, ma beh, sono andato a patronato stasera mi ho fatto fare la disetta. E ci andiamo. Adesso domani voglio sapere se 17 centesimi, perché mi manca che un anno di contributi mi mancano, E balla, perché ho fatto stampare il foglio al patronato, mi ha detto sì, cioè quello è basso, questo un anno e più non l'ho messo. Poi, questi 17 centesimi, chissà come cacchio hanno valutato, io ho detto comunque vado a consulente, vado a patronato, mi informo e se possibile vado anche a Nuova Sardegna, se le cazzette. E poi non è solo disdirla, no? Ti devono dare tutti i soldi che ti hanno fatto pagare quando tu non hai dato il permesso del sindacato. Praticamente, maestro, lei ha firmato dal patronato la Senas, com'è? E lì è quando mi hanno dato poi quelle cose, Gianni, senz'altro. Ma è strano, perché io so che era chiuso quel patronato, perché io l'ho pagato 15 euro, l'ho pagato, per farmi quella domanda, perché mi fa pagare anche l'esercitacato? Io adesso sono a Laborson, non sono più alla Seiras. Ah, per fare le domande non fanno pagare nulla, da me non fanno pagare nulla. Me le fate di validità? E allora, niente, ho pagato io. A me fa pagare 15 euro. Nulla, manco 5 lire. Infatti a Labor non ho mai pagato niente io, mai. Manco io. No, io... Chiara non mi fa mai pagare niente. L'altra c'è Maria Lucia, dice che è monazza, bella... Sembra quella che deve venire qua, adesso viene sabato mattina, non va a prenderla. Pago solo per il 7.30, buon passo. 7.30 a 50 euro. No, io non ne voglio più 7.30, non c'è niente da scaricare. Devo scaricare in bagno. E in bagno ce l'ho a casa, devo scaricare dei medicinali, tutto quanto, visite. Tu non le fai visite specialistiche a pagamento, scusa. No, io tutte le visite non pago niente. Quindi sono esente. Poi non posso scaricare neanche l'affitto, la mazza gliene fai ricchi. Medicinali non ne compro. Non ne pago già. Ma tu per prendere i medicinali c'è aggiunta la differenza, guarda, e 7 centesimi, 23 centesimi, di cazzate. Ma ci sono dei medicinali che non ti vengono forniti dalla SL, che li devi pagare per forza. Quello che prendo io, la maggior parte non le pago. Quello per il cuore non le pago. Per l'altro... praticamente non pago niente. Poi la cardiospirina pago, mi sembra una cazzatina pago. Il dottesso per la pressione non pago niente. E invece non pago tutto, cioè, esempio. Ma ci sono delle medicine che la SL non le fornisce e te le fanno pagare. Anche quelle per i cani le paghi. Vabbè, io grazie a Dio ancora i cani. Non l'ho giunto nulla. Lo so. Però fanno pagare. Adesso hai sentito che voglio dare 150 euro a animale domestico, c'è una proposta di legge. E cioè perché 150? Per avere un aiuto sia veterinario sia per allevare i cani eccetera, perché molta gente li abbandona, capito? Ma va a tenere lo contrario, si mi dà un americano e va a avere un veterinario. E allora ne ho due, mi dà 300 euro. Esatto, ma devi avere un ISE che non superi 15.000 euro. No, non le supero già. Però è una proposta solo, bisogna vedere se fa avanti. È una proposta che è stata fatta, una proposta di legge. Se va avanti io prendo a 3, 5, sì, io ho 6 animali in casa. Io ne metto 10 quelle cortine, poi quando cambio casa i due me le porto via e gli otto me le lascio lì. Ma infatti secondo me dovrebbero aiutare solo per comprare i medicinali, non farli pagare, queste cose qui va bene così, perché sennò la gente ne approfitta, capito? E poi li abbandona, magari si riprende per quadrare la situazione e poi magari si ripudi pure. Ah sì, ma aspetta Gianni, il governo non è scemo. Innanzitutto fanno mettere il microchip. Adesso si trova un abbandonato che c'è il microchip ed è quello che ha preso usufruito dei soldi e l'abbandonato sono a cavolo suoi. E anche quello è vero, ma comunque fatta la legge ha trovato l'inganno di zia Ghisci. Lo so. Io sono tutti i video, devo mettere in paura. Poi hai visto il muro su 500 euro allo studente, però che deve fare i requisiti, che lo deve superare un tot di rete, ma se la media luce, mi muovo di cazzate. Se avessero dato un tanto al mese in più e noi gli avremmo giostrato le cose, capito? Un tanto al mese in più invece di darvi una misera pensione. Danno meno un tanto al mese in più a tot, a testa e via. Ma il Berlusconi, uomo di gomma, ha detto di cazzate più maledetto. La pensione minima a 600 euro, ma quello ci posso credere perché già se ti fai il conto, la minima prenderà 500, 72 euro, 28 euro le dette a 600 euro, ma poi 100 euro all'anno fino ad arrivare a 1000 euro, e no, lì non ci sto più, perché un domani chi ci va solo 20 anni di contributi che ha versato deve prendere quasi quasi quanto prendo io che sto pagando di un mese di più. Dicono, poi non fanno un caso, la parola sono tutti bravi. Tu casino comunque. Oh, yeah. Go. comunque hanno fatto quello che hanno detto, che per il rito basta 7 mesi, prima 1 anno e mezzo era. 7 mesi, il primo posto di lavoro gli danno, che si rifiuta glielo tolgo del tutto, quello va bene. Prima 8 mesi, poi 7 mesi, fra poco non ne danno niente. È vero, mi piace. E comunque a chi ne ha bisogno glielo lasciano, tipo gente che è invalida, roba del genere, glielo lasciano. E mi sono, lo faccio anche io domanda, me lo date a me? A te, tu c'hai una pensione, glielo ti date. Ma non è molto la pensione mia. Ho capito, ma anche mia sorella prende sia la pensione che il reddito di cittadinanza, però la pensione è bassa proprio, molto bassa, 400 euro, il resto glielo danno il reddito di cittadinanza, gli davano 800, poi glielo hanno abbassato. Che casino che è. Io ho preso l'ordo, c'ho 1287 euro l'ordo. Ma io mi sa il mio collega 1300 euro prende. Ma a me mi pare che questi hanno letto l'ordo, hanno letto. A me oggi è proprio tanto, sto parlando qui. E siamo tra molte persone prendono sulle 1200-1300, dice non è vero, loro leggono l'ordo e poi prendono quattro lì, ma è. Vabbè, Giuseppe lavorava tanti anni, lavorava quando aveva 14 anni, mi capito. Dunque, se torniamo con la lira io prendo più di 2 milioni praticamente, è buono dai. Vabbè. Magari torniamo con la lira, stiamo bene veramente. Però il valore non è lo stesso. In proporzione sì, ma il valore, diciamo di cose, di spese e cose del genere non è la stessa cosa. No, Gianni, se torna la lira, deve tornare i prezzi che avevamo con la lira, allora stiamo bene veramente. Perché più pensante stavo bene, 2 milioni e 2, 2 milioni e 3 ne prendiamo, quindi. E automaticamente a portare la roba, perché quando hanno messo poi l'euro, hanno lasciato praticamente la maglietta costava 5.000 lire, 5 euro sono detti, mi avrà che il doppio, mentre non si vede rimasto quello che era, ecco perché si hanno fregato, quindi dovrebbe tornare di nuovo indietro ai prezzi che erano prima. Sì, sì, a gamano di voi, ce l'hanno fatta a truffarci e adesso a tornare indietro è difficile. Come ti supprodi, maledetto, mortadella, prima il gelato lo pagavate 1500 lire, adesso lo pagate 3 euro che sono 6.000 lire, pezzo di merda, lardoso, io prendo 15.000 euro di pensione, così che crepi, raga. Vabbè, se la pide luce, la sarà fatta. Ohia. Purtroppo è così. C'è chi troppo e c'è chi niente. Chi ha lavorato veramente, chi ha sgombato veramente, prende meno di quelli che non fanno niente. Ehi, signore, io stasera ho patronato a Maria Lucia, ho detto, guarda, mio fratello non ha mai versato un contributo, nulla. E c'è il giro, mi diamo un bene, era più di 600 euro. Mai lavorato, c'è il giro come non lavorare, dice, e ha ragione, come non lavorare, sì, ma come fai a campare, non ci metto. Purtroppo bisogna lavorare. Vabbè, poi, diciamo che il lavoro ti impegna, gratifica, uno che non lavora e prende i soldi così senza lavorare si sente una merda. Queste persone che li prendono non penso che si penso che sia una merda, anzi è paese più di altri mi due sono anche quelli che non hanno sentimenti, non la fatti nulla. E purtroppo il mondo è fatto così, che è troppo canuta. Io ho visto quel programma in TV che c'era questo giornalista e è inutile che lei mi va a dire se mi trovo il rito vado a rubare e a sciacciare, cosa vuoi che ti paghiamo il pizzo adesso? Ma tu proprio non stai dicendo niente. Hai detto, ma state zitto, fate la vergogna di dire certe cose, io ce l'ho fatto rimanere in mare. Sai, mangi, cazzo, vado a rubare. E vai, quindi vai in galera e te la mi luci. E a me non mangi e dormi grassi. ma Gianni, più entro in galera queste persone qua, più aumenta il caro vita, perché se vanno noi con le tasse le paghiamo, capito? E poi, noi pensionati non dovremmo pagare niente per zirgare le tasse burichivi. Se mi hanno bucato 500 euro, mi hanno bucato per il conguaglio IFERF. Il conguaglio IFERF sono per gli invalidi e i disabili. Cazzo, gioco anch'io, è un invalido per le gare di Nambo. Tony, poi non non so se sia vero quello che non pagano nulla, perché hanno intervistato questo ex carcerato e ha detto che non è vero che come crede la gente che fanno tutto gratis, che li fanno pagare le giornate che ci stanno. Ma io so che li fanno lavorare dentro in galera e gli danno anche lo stipendio, certo non glielo danno in mano, avranno un libretto e lui può comprarsi le sigarette, il cioccolato, il giornale, eccetera eccetera. E poi dice che allo spazio si paga tutto 3 volte di più. Questo non lo so. Boh. Io per esempio non ci andrei mai, perché penso di soffrire castrofobia, chiuso in una cella. Boh. Ma non è che ci va perché ci vuoi andare tutti, ci va perché più si muore. Battata al chietto. Ma se comportate bene, grazie a Dio sono pulito, non ho mai rubato, quindi. Purtroppo quelli che rubano veramente sono fuori, iniziato dal governo. Sì, non rubi, ma sei irascibile. No, ecco la c'entra, però già sono cauto, tranquillo, sereno e parsimonioso. Yeah. C'ho un carattere troppo bello io, me lo dico tutti. Quanto sei meglio. La calma è la virtù dei furti. E invece io schizzo. Perché devi contare fino a 100 prima di agire. No, troppo fino a 100 già. Allora, poi ti bisogna giro. No. Io non sono fuori sulla tua guancia. Vabbè. Ma da un lato all'altro. Vabbè, però la devo fare grossa, capito? Non è che per la cazzata, no. No, ho visto che trasporta vali, vali. La stai. E no, glielo esco 2 o 3 volte, e ma sti cazzate, scusa, allora sei sorgio, eh. Io devo anch'io caricare un invalido, non ha giù un preso. Allora, Tony, se c'era prima lui, aveva ragione. Perché quello lì, quel pulmino lì, per scaricare gli invalidi c'erano la pedana, li portano all'ospedale e li scaricano loro, capito? È normale, c'era prima lui, dovevamo aspettare noi e poi caricavi a me. Sì, ma Gianni, la pedana si poteva abbassare per il sotto, era un po' retromarcia, dimmi. E potevi entrare dentro con la macchina, come la passa? Vabbè, ma trovo spesso la macchina, mi dico, motore acceso, io non ci ho preso, che buona macchina che dà. Comunque quello lì, poveraccio, c'è l'asura, gli devi fare tutta l'asura, scaricare, fare, rimetterli, portarli là. Ma non è pagato già? Lo so. Ognuno con lo suo. Oh, 8-4 subito, dai, che adesso accendo il gas, passa il sugo è già pronto. E si mandi gas. Dai, ci vediamo domani mattina già. Buon carica quando lo fai. E ci sentiamo. Ciao ciao. Ciao ciao Tony, buonanotte. Ciao, buonanotte.